L'amico immaginario. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere, poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo, per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. L'amico immaginario torna in onda, ma qualcosa è cambiato, siamo cresciuti. Non abbiamo però perso il vizio di farci degli amici nel mondo dell'irreale, del simulato, della finzione. Sempre personaggi della fantasia che abbiamo incontrato però in età più adulta. Non più il Sandokan di quando eravamo bambini o il ragionier Fantozzi di qualche tempo dopo. Questi sono amici con cui abbiamo avuto a che fare in tempi più recenti. Li scopriremo assieme a partire da adesso. Ecco un primo indizio sull'amico, anzi sugli amici di oggi, al plurale perché sono addirittura un gruppo, 6 in tutto, 3 uomini e 3 donne. L'indizio, la musica di Gershwin in sottofondo, ci porta a New York, dove i nostri amici vivono, lavorano, si innamorano, addirittura si sposano. Uno di loro convola a nozze addirittura 3 volte. La prima volta finisce male, la seconda anche, la terza malissimo. Sono una cameriera, poi manager della moda, una chef ex obesa, una massaggiatrice, un pubblicitario, un attore e un paleontologo. Se poi citiamo Central Perk, la loro caffetteria, il mistero è svelato. Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joy e Ross, gli amici per eccellenza, i Friends dell'omonima serie TV creata da Martha Kaufman, David Crane e Kevin Bright per la Bright Kaufman Crane Production e prodotta dalla Warner Bros. In onda in prima visione negli Stati Uniti sulla NBC dal 22 settembre del 94 al maggio di 10 anni dopo, il 2004. In Italia la serie è stata in onda sempre in TV dal 97 al 2005, su Rai 3 le prime 4 stagioni, su Rai 2 dalla quinta alla decima stagione. 6 amici nella New York degli anni 90, come punto di ritrovo una caffetteria nel Greenwich Village gestita dal timidissimo e biondissimo Gunther, il Central Perk. Comincerà tutto lì, su un divano arancione, in quel locale a 97 passi esatti dal palazzo dove vivono 4 ragazzi su 6, ne parleremo. Prima di questo andiamo a scoprire i nostri amici di oggi, a partire da Chandler. Chandler Bing. Se avessimo chiamato tuo padre potevamo avere posti migliori. Oh, non voglio ancora che sappia che siamo qui. Io non so se sono pronto, e poi neanche lui sarà felice di vedermi. Perché no? Non so se te l'ho detto, ma lui ha provato a mettersi in contatto con me tantissime volte in questi ultimi anni. Cosa? Sì, mi ha telefonato spesso, scritto lettere, è anche venuto a New York. Ma gli ho sempre detto che ero troppo occupato. È una storia complicata e tutto così strano. Ci siamo? Signore e signori, vi prego di dare il benvenuto alla stupenda Helena Hand-Basket! Salve, tesorucci! Ecco a voi mio padre. I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty and witty and... Yeah! Il nome completo è Chandler Muriel Bing e già un secondo nome femminile qualche disagio lo comporta. Figurarsi se poi si aggiungono un padre che lavora in travestì a Las Vegas e una madre scrittrice di romanzi rosa che non disdegna i flirt con i ragazzi più giovani. Il divorzio fra i due arriva in un giorno del ringraziamento, tanto che Chandler odierà per sempre la festività più cara agli americani. Donne poche e poco buone, su tutte la noiosa Janice, prima di Monica, la sorella di Ross, suo amico dai tempi del college. Chandler sposerà Monica dopo una memorabile proposta di matrimonio nella sesta stagione e una divertente cerimonia alla fine della settima. Chandler, In tutta la mia vita non ho mai pensato di poter essere così fortunata da innamorarmi del mio miglior... del mio miglior... Accidenti, non riesco a dirlo. Va bene, non importa, tesoro. Continuo io. Ero convinto. Aspetta solo un secondo, Io credevo che importasse che cosa dire o dove l'avrei detto. Ma poi ho capito che l'unica cosa che conta è che tu mi rendi più felice di quanto avessi mai potuto immaginare. E se tu vorrai, io passerò il resto della mia vita a renderti altrettanto felice. Possiamo entrare, stiamo morendo, il suo migliore amico è Joy, per cui prova un affetto quasi paterno. Con lui divide l'appartamento di fronte a quello di Monica e Rachel, fa l'analista finanziario, anche se gli amici impiegano episodi su episodi per capire di che mestiere si tratti, lavoro che abbandona per la vera passione, il mondo della pubblicità. Fra tutti è il più solido finanziariamente parlando, ma anche quello alla fine è meno sicuro di sé, un'insicurezza nascosta dietro a un senso dell'umorismo fatto di battute sardoniche e domande retoriche, una specie di riflesso condizionato più forte della sua stessa volontà. E dopo Chandler tocca a Monica, prima amici, poi amanti, poi fidanzati e infine sposi, ma la storia della ex obesa sorella di Ross parte da più lontano. Monica Geller, sorella di Ross, futura fidanzata e sposa di Chandler, amica dai tempi del liceo di Rachel, maniaca della pulizia al limite del compulsivo, ma anche competitiva, tanto da non riuscire mai a rifiutare una sfida di qualsiasi tipo, dalla partita amichevole di football in cortile con gli amici per conquistare la Coppa Geller, fino a giocarsi con i dirimpettai, Joey e Chandler, addirittura l'appartamento. Per la cronaca, Monica e Rachel perderanno perché non saranno in grado di dire quale lavoro fa Chandler. Dicevamo della mania per ordine e igiene. Monica è una di quelle persone che ordinano gli asciugamani per categoria e che vivono di sottobicchieri. Un'ossessione questa che si salda ad un'altra, quella per il matrimonio. Monica ha un album pronto da anni con i suoi preparativi per il grande giorno e passa una giornata con Febe a lanciarsi un bouquet in abito da sposa altrui. Oh mio Dio, siamo davvero patetiche. Sì, abbastanza. Non è neanche il mio vestito. Tu almeno non l'hai affittato in un negozio chiamato Non è mai troppo tardi. Mi vado a cambiare. Anch'io. Diciamo fra mezz'ora. Anch'io. D'accordo. Tiralo dritto su di me stavolta. Ok. Forza. L'ho preso un posero a pezzo. Monica è una chef con passato da obesa, proprio un commento del futuro marito Chandler la convince a una dieta ferrea. Marito a parte, con cui la storia inizierà quando i due finiranno a letto insieme al matrimonio londinese del fratello maggiore Ross, l'altro grande amore della sua vita è Richard Burke, oftalmologo con 20 anni più di lei, interpretato ovviamente da Tom Selleck. Una relazione che non durerà a lungo perché lei vuole aver figli, lui invece no. Monica vive con Rachel, la sua migliore amica ai tempi della scuola, poi persa di vista, rincontrata in fuga dal matrimonio a Central Perk nel primissimo episodio della serie. E poi c'è Rachel. Tutta la storia dei sei amici comincia proprio con l'ingresso di Rachel al Central Perk, in abito da sposa in fuga dal matrimonio con Barry. La figlia di papà costretta a fare la cameriera, Rachel Green, entra nella sitcom alla prima puntata, in fuga dal matrimonio con lo storico fidanzato Barry. È cominciato tutto mezz'ora prima del matrimonio. Ero nella stanza dove tenevamo tutti i nostri regali e stavo guardando una salsiera bellissima, una salsiera d'argento veramente meravigliosa. Quando a un tratto, cielo zucchero, mi sono resa conto che ero più eccitata dalla salsiera d'argento che da Barry e allora mi sono davvero spaventata e mi sono anche accorta di come Barry assomiglia a Etty. L'addio sull'altare le costa anche i finanziamenti del papà dentista, che poi la riconoscerà però come l'unica delle sue figlie che ha un vero lavoro. Dopo l'inizio da cameriera, la sua carriera è tutta nel mondo della moda, vera passione per lei, fino ad arrivare a lavorare per Ralph Lauren. Nel gruppo è la più snob e modaiola, almeno all'apparenza. Non le mancano gli uomini nel corso della serie, dal vicino Pablo, Paolo nella versione americana, al giovane collega Tag, molto più giovane di lei, al limite del toy boy. Quello con cui finisce più volte e che alla fine sposerà è Ross. Lui la ama fin dai tempi del liceo, quando il naso della ora bella Rachel era ben diverso, la sua pettinatura non era perfetta e il suo gusto nel vestire non ancora affinato. La sua migliore amica è sicuramente Monica, amicizia che si rafforza puntata dopo puntata, passando però, come tutte le amicizie, anche per qualche lite. Io sono Monica, lavo il water 15 volte al giorno, anche se c'è qualcuno sopra. Ciao, sono Rachel, ho la maglietta troppo stretta, no? Allora la lavo, così si stringe. Rachel vive con Monica, poi con Phoebe, poi con Joy e infine con Ross, ma solo come amici, per crescere insieme la figlia Emma. Il finale, si sa, sarà diverso e Ross e Rachel torneranno a essere Ross e Rachel. Abbiamo parlato di Rachel, ma non c'è Rachel senza Ross, come del resto non c'è Ross senza Rachel. L'amore tra i due, durato per tutte le 10 stagioni, è uno dei pilastri della serie, tra tira e molla, tradimenti, matrimoni da ubriachi e una figlia nata per una notte di passione. Il dottor Ross Geller, per essere esatti, lui ci tiene molto al titolo, anche se spesso gli altri gli fanno impietosamente notare che la sua laurea da paleontologo non ha certo lo stesso valore di quella di un medico. Ross è all'apparenza un secchione un po' noioso che, proprio per rifuggire all'immagine di nerd, si ficca in situazioni a dir poco imbarazzanti e tende ad arrabbiarsi per cose anche di poca importanza. Lo troviamo all'inizio della serie appena divorziato dalla moglie che ha scoperto di essere lesbica. I due condividono la custodia del figlio Ben. Ross sposerà l'inglese Emily, ma all'altare dirà il nome del vero grande amore della sua vita. Amici, parenti, siamo qui riuniti per celebrare la gioiosa unione di Ross ed Emily. Ora, Ross, ripeti dopo di me. Io, Ross. Prendo te, Emily. Prendo te, Rachel. Emily. Ha detto Rachel, vero? Dovrei farmi avanti. Da sempre, da quando era un riccio nerd al liceo, nel suo cuore c'è l'amica della sorella, Rachel Green. Una relazione che durerà per tutti i 10 anni della serie, tanto da diventare un luogo comune, una sorta di stereotipo delle relazioni tormentate alla Ross e Rachel, appunto. Sarà un lungo percorso quello che li vedrà alla fine di tutto di nuovo assieme, un percorso fatto di tira e molla, ti lascio e ti riprendo, mi sposo e annullo le nozze a Las Vegas, per finire poi nello stesso letto con un preservativo scaduto. Il risultato è la piccola Emma, nata dopo un travaglio infinito con Ross accanto a Rachel, anche se in quel momento i due non sono una coppia. Della loro storia rimane anche un tormentone, di cui parleremo più avanti, quel avevamo rotto che nella versione originale è... We were on a break! We were on a break! Sunshine go away today. Don't feel much like dancing. Some man's gone and tried to run my life. Don't know what he's asking. He tells me I better get in line. E poi c'è l'attore del gruppo, attore di soap opera quando gli va bene, disoccupato per gran parte del tempo, spesso a corto di soldi e finanziato da Chandler, non proprio velocissimo di comprendonio. Joy, quello a cui basta una semplice espressione per far cadere ogni ragazza ai suoi piedi. Joy Tribbiani è l'unico maschio tra gli 8 figli di una famiglia italo-americana, una vita di coccole all'italiana che lo ha lasciato con tratti bambineschi, come l'abitudine di dormire con un pupazzo. Il suo sogno è fare l'attore pur non avendo un grande talento e con poca preparazione. Stenterà per anni fino a raggiungere il ruolo della vita in una terribile soap opera, I giorni della nostra vita, dove interpreterà il dottor Drake Remoré. Come da tradizione del genere, il suo personaggio morirà e ritornerà miracolosamente in scena. Nei tanti alti e bassi, una fan senza se e senza ma, l'anziana nonna. Oh mio Dio! Che c'è? Voi continuate tutti a sorridere se nonna lo scopre e rischia di restarci? Che brutto! Hanno tagliato la mia scena! Cosa? Ne sei sicuro? E se venisse in seguito? Non è possibile! Vedete quella lettiga con il cadavere? Sì! Sono io quello! Joy è una persona semplice, non certo di grandi studi, non sa usare le virgolette, pensa che il lavoro di Ross sia dinosauri. Ha una fame insaziabile, un rapporto morboso con il cibo che per lui è sacro e un fascino che non lascia indifferente le donne. Ogni mattina ce n'è una diversa nell'appartamento che divide con Chandler. La sua tecnica di abbordaggio è fatta da una sola frase, sufficiente ad attrarre le donne, in italiano tradotta in molti modi nella serie, così nella versione originale. Hey, how you doing? È l'unico della compagnia a non avere una storia d'amore stabile, è l'unico che avrà uno spin-off con il suo nome dopo la fine della serie, ma ne parleremo più avanti. E infine, dulcis in fundo, l'eccentrica, simpatica e controcorrente Febe. È quella con il passato più complicato, l'esistenza più improvvisata, solare e capace di grande positività. Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Tutti insieme! Bel gattone, bel gattone, non è colpa tua. Manica! Bel gattone, Chandler! Chi ti regalerà un po' di sapone? Joy! Puzzi come un caprone. Rachel! Dovresti fare un bel doccione. Brava! Ehi, Ross, la canzone finisce qui, mi dispiace. Ok, ricominciamo col coro! Basterebbe dire che è l'autrice di una canzone dal titolo Gatto rognoso per spiegarne l'eccentricità. Phoebe Buffay è tra gli amici quella che ha avuto la vita più dura, data in adozione insieme alla sorella gemella a una donna, Lily, che si suicida quando le ragazze hanno 14 anni. Il padre se n'era già andato. Da ragazzina vive per strada, rapinando i passanti, tra cui un giovanissimo Ross. È la prima coinquilina di Monica, di cui però non sopporta le manie e quindi si trasferisce dalla nonna. Paladina degli animali e vegetariana convinta, mangia carne solo in gravidanza. Glielo chiedono i bambini, tre che porta in grembo come utero in prestito per il fratellastro, la cui moglie non riesce ad avere figli. Una gravidanza con qualche scompenso ormonale. È la decima volta che vado al bagno da quando sono qui. Ed è anche la decima volta che lo dici. Deve essere dura ascoltare i miei lamenti. È più facile avere a che fare con tre bambini che suonano un pezzo funk indemoniato con la tua vescica. Non ne posso più di essere incinta. L'unica mia gioia sono due tazze di caffè rigorosamente decaffeinato perché... Oh, sono incinta! Febe, vuoi un biscotto? Grazie, infinite. Allora, Febe, come vanno i cambiamenti d'umore? Io non ne ho ancora. Phoebe è tutta cuore e razionalità pura, perché non conosce nozioni e convenzioni del mondo che ti vengono insegnati da infanzia e scuola tradizionale. Nega l'evoluzione, crede nella reincarnazione e in Babbo Natale. È l'unica a non avere una storia con un altro membro del gruppo. Non ha un grande rapporto con la sorella, che gira film porno usando il suo nome. Lei invece fa la massaggiatrice di mestiere, ma il suo punto di forza è cantare al Central Perk, suonando la chitarra con accordi inventati e testi improbabili. Il mondo di Friends è fatto di tanti altri personaggi, alcuni dei quali con volti famosissimi dello star system hollywoodiano. Di questo parleremo tra poco, perché guest star della grande Hollywood a parte, Friends ha una lunga serie di personaggi ricorrenti che tornano periodicamente nella serie. Amici, colleghi, genitori e soprattutto ex. Tra i primi che conosciamo ci sono l'ex moglie di Ross, Carol, scopertasi lesbica all'inizio della serie, e poi l'attuale compagna Susan. Gunther è il proprietario del Central Perk che dà lavoro all'incapace cameriera Rachel, solo perché segretamente innamorato di lei. Jack e Judy Geller sono i genitori di Monica e Ross, il preferito soprattutto dalla madre. Nora Bing è la sexy scrittrice madre di Chandler, che ha però un'altra guest star fondamentale. Janice, insopportabile fidanzata dalla voce acuta, che dice sempre "Oh mio Dio" e che per questo viene presa in giro dal resto della banda. Oh my God. God. Oh my God. Oh my God. Janice compare a sorpresa in diverse stagioni, partorisce insieme a Rachel e cerca casa quando lo fanno Monica e Chandler. Il quasi marito di Rachel si chiama Barry, poi c'è la manager di Joy, Estelle, Frank, il fratellastro di Phoebe, infine Mike, quello che tra non poche traversie diventerà il lui di Phoebe. Dicevamo delle ospitate famose, in tanti episodi appaiono star della Hollywood che conta, anche un ex marito famoso, quel Brad Pitt che era ancora il signor Aniston, non ancora Jolene. È una lista talmente lunga e tanto piena di star che pare impossibile citarle tutte. Fin dalla prima stagione, Friends ha avuto ospiti famosi, anzi famosissimi, e dopo è stato per molti un punto d'onore avere una parte nella serie. La più nota è l'apparizione di Brad Pitt, al tempo marito di Jennifer Aniston, nei panni di un amico di Ross con cui in gioventù aveva creato il club segreto Io odio Rachel Green. Scusa, ma tu hai forse qualche problema con me? Non lo so, dovrei? Devo? Secondo me sì. Tu per lui sei stata un piccolo neo alle superiori. Un piccolo neo? Hai reso la mia vita un vero inferno. Mi dispiace, io non ne avevo idea. Sì, lo so bene. Comunque, io voglio che tu sappia che mi dispiace per tutto quello che ti avrei fatto a scuola. Oh, non solo a me. Avevamo un club. Tu avevi un club? Proprio così. Io odio Rachel. Era questo il club? E così vi riunivate addirittura in gruppo per odiarmi. E chi altro c'era nel club? Io e Ross. Non serve indicarmi, lo sa bene chi è Ross. Tra le più durature la partecipazione di Tom Selleck, l'oftalmologo di cui si innamora Monica. Anche Rachel ha un amore molto più grande di lei, Bruce Willis. Le due ragazze litigano poi per uscire con Jean-Claude Van Damme e si scambiano i nomi per un appuntamento con George Clooney e Noah Wiley, ancora con i camici di ER addosso. Phoebe esce invece con Sean Penn. A Joy toccano Elle Macpherson, sua coinquilina, e Brooke Shields, una fan stalker che pensa che lui sia il personaggio che incontra nei giorni della nostra vita. Per Chandler, una Julia Roberts che si vendica per le angherie subite da bambina, e per Ross, Isabella Rossellini nei panni di se stessa. Indimenticabile Kathleen Turner nei panni del padre drag queen di Chandler. Le sorelle di Rachel sono Christina Applegate e Reese Witherspoon. Il padre di Monica e Ross è Elliot Gould, già nella serie di Ocean con Clooney, e ancora Susan Sarandon, Robin Williams, Billy Crystal, Hugh Laurie, Charlton Heston, Gary Oldman, Ben Stiller, Jeff Goldblum, Winona Ryder, Charlie Sheen, Alec Baldwin e Danny DeVito, nei panni improbabili di una spogliarellista. Una curiosità su un altro pezzo fondamentale del mondo di Friends, il Central Perk. Dopo il successo della serie, un imprenditore ha ottenuto la licenza per usare il nome Central Perk per i suoi bar, che ora grazie al franchising sono piuttosto numerosi. I bar imitano, come ovvio, l'arredamento e l'ambiente dell'originale, e all'inaugurazione del Central Perk di Dubai c'era addirittura James Michael Tyler alias Gunther. Un altro Central Perk è sulla Main Avenue a New York, in Italia lo troviamo a Seveso e a Varese. Con uno sguardo più ampio, uscendo dalla caffetteria tanto cara ai nostri sei amici, troviamo un'altra protagonista della serie, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. Girata a Los Angeles, come quasi tutta la TV americana, ma ambientata a New York. E se la città non è protagonista di primo piano, come in Sex and the City, è comunque fondamentale per la serie. Sono molti soprattutto gli esterni girati nella Grande Mela, su tutti il palazzo dove vivono i ragazzi, all'incrocio fra Grove e Bedford Street, nella parte ovest del Greenwich Village. Gli appartamenti occupati sono il 19 e il 20. Gran parte della serie ruota attorno a questa zona della città, in particolare Washington Square Park. Ci si sposta solo per lavoro. I grandi magazzini Bloomingdale's e Saks per Rachel, il solo building per Chandler a Midtown. È possibile andare a mangiare in uno dei posti più strani dove ha lavorato Monica, il Moon Dance, fra Grand Street e la Sesta Avenue. È un vagone trasformato in ristorante. Le cameriere hanno pattini, cantano e ballano. E anche se le scene non sono state girate qui, Ross lavora al Museo di Storia Naturale, quello con i dinosauri di Una Notte al Museo. L'amico immaginario. Per tanti fan, Friends vuol dire soprattutto Ross e Rachel, e di sicuro il rapporto tra loro due, all'inizio solo una delle dinamiche personali tra i protagonisti, è diventato tra i temi centrali, anno dopo anno. Sintetizziamo, almeno ci proviamo. Lui è innamorato di lei dai tempi del liceo, ma lei è lontana e irraggiungibile. Poi finalmente si mettono insieme. Tutto bene per un po', poi lui inizia a diventare geloso, pressante, quasi soffocante. Litigano, lei decide per una pausa di riflessione, durante la quale però Ross va a letto con un'altra. Rachel lo scopre e la rottura diventa definitiva, nonostante i tentativi di riconciliazione di Ross. E adesso una dedica a Rachel da parte di Ross. Rachel, Ross ti giura che gli dispiace da morire per quello che ha fatto e spera che tu possa trovare nel tuo cuore la forza di perdonarlo. See the stones set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Scusate, ma Rachel ci ha appena raccontato che cosa le ha fatto Ross. È un comportamento veramente schifoso. E Ross, se ci stai ascoltando, ti pregherei di cambiare frequenza. Poi anni di tira e molla, sesso occasionale, un matrimonio a Las Vegas, poi annullato da ubriachi, una figlia insieme, Emma, nata appunto da una notte di passione. E poi, finalmente, a 3 puntate dalla fine della 10ª e ultima stagione, l'happy end. Oh mio Dio, ce l'avrà fatta a scendere da quel dannato aereo! Sono qui, Ross. Sei scesa dall'aereo? Ti amo tanto anch'io. Giuro che stavolta non ti lascerò mai più andare via. No, anche perché è qui che voglio stare. Ti prego, non roviniamo di nuovo tutto. Rachel, nel mondo reale Jennifer Aniston, è dei 6 quella che sicuramente ha conquistato maggior ribalta, soprattutto grazie al suo matrimonio con Brad Pitt, finito come sappiamo, ma anche per il suo look, fino a diventare moda per il suo taglio di capelli, il cosiddetto taglio alla Rachel. Francesca Prosperi ne ha parlato con Mariella Albanese del Salone Opera di Milano. Se ti dico taglio alla Rachel, che cosa ti viene in mente? Ma intanto mi viene in mente lei, che è una bellissima donna, quindi ha una bellissima struttura anche di capelli, perché vedendola su tutti i giornali immagino di farlo comunque a una donna che ha la stessa struttura corposa, bella piena, affascinante, ecco. Come definiscono i professionisti questo tipo di taglio, il taglio alla Rachel? Ma sicuramente è un taglio abbastanza raffinato, ma molto disinvolto, versatile. Ecco, perché questi sono tagli comunque che si possono pettinare, strutturare in tanti modi, liscio, mosso. Negli anni 90 è esploso il taglio alla Rachel. Ti è mai capitato di avere una ragazza che ti chiedesse fammi un taglio alla Rachel? Beh, sai, io ho incominciato proprio in quel periodo, ero una ragazzina. No, di più adesso, sono sincera, diciamo dagli ultimi decenni. Quindi è un taglio che ancora si fa, è un taglio dove ancora arrivano le donne e ti dicono voglio il taglio di Jennifer Aniston, voglio il taglio di Rachel. Sì, sì, vengono anche perché comunque la donna è colpita soprattutto dal fashion e dalla bellezza delle, diciamo, queste icone che vengono sui giornali, quindi vengono qui, ah io vorrei essere così, le prendono anche un po' come immagine, proprio come vorrebbero essere loro. È un taglio che possono portare tutte, il taglio alla Rachel? Diciamo che su una media lunghezza si potrebbe fare a tutte, però ripeto, c'è sempre il discorso dei capelli. Un capello, quando abbiamo una bella massa, abbiamo diciamo una quantità e lo spessore, sicuramente viene una forma diversa. Friends è una di quelle serie super replicate ancora oggi, del resto è stata una delle sitcom di maggior successo. Tanto per avere un'idea, il finale della serie al termine della 10ª stagione è stato il 4° più visto della storia della televisione americana. Allora proviamo a indagare le ragioni di questo successo. Con noi c'è Matteo Marino, coautore insieme ad Andrea Bordoni del libro Tutto quello che avreste voluto sapere su Friends. Matteo è tra l'altro critico cinematografico e blogger. La prima domanda, Matteo, 6 amici, 6 persone, personaggi, un cast in equilibrio. È davvero così o nel corso degli anni questo o quel personaggio si è imposto sugli altri? Allora, devo dire che se oggi chiedi a qualcuno qual è il personaggio preferito della sitcom del momento, Big Bang Theory, quasi tutti ti diranno Sheldon Cooper. Fai una domanda del genere per quanto riguarda Friends e vedrai che c'è molta più indecisione e molti ti diranno no, tutti quanti. Cioè in Friends è proprio l'elemento del gruppo di amici che emerge, soprattutto questo nelle prime stagioni, quando ancora appunto gli attori non erano uno più famoso dell'altro. Poi sappiamo magari che Jennifer Aniston ha fatto un percorso diverso, anche cinematografico, e la storia tra Ross e Rachel forse si è un po' imposta, però l'idea iniziale, anche il punto di forza della serie, è in realtà un equilibrio che veramente è molto molto buono tra tutti i caratteri. Lo stesso si può dire degli attori, perché nelle dichiarazioni pubbliche si sono sempre professati amici, affiatati, addirittura a un certo punto, ricordiamo, fecero una specie di protesta sindacale per avere compensi più alti, ma tutti uguali tra loro, il famoso milione di dollari ciascuno a puntata. La domanda è: credi fosse reale questo affiatamento o sono, insomma, immagine, marketing? Secondo me c'è un reale affiatamento del cast, perché penso che altrimenti la serie non sarebbe stata così longeva e così divertente negli anni. È vero che a un certo punto, come tutte le serie che durano tanto, tanto tempo, sono purtroppo le riflessioni proprio di economiche che magari fanno sì che la serie vada avanti quando è il momento ormai invece di chiudere. Però dalla mia impressione in Friends c'è sempre stato un divertimento anche degli attori. Se molti dicono che Friends raccoglie il testimone di Happy Days, quali sono le vere novità della serie rispetto al passato secondo te? Diciamo che il format di Friends è un format molto classico da sitcom, di come eravamo abituati, con le risate in sottofondo, la centralità del divano, che è un po' un feticcio. Però la cosa fondamentale di diverso è che mentre nelle serie, nelle sitcom precedenti, al centro c'era proprio la famiglia, anche dai titoli, i Robinson, i Jefferson, piuttosto che anche spesso Happy Days era centrale la famiglia, Cunningham per esempio, ecco, qui c'è il passaggio a osservare una solidarietà diversa, che è anche una solidarietà magari che si instaura nelle grandi città, dove magari viviamo spesso lontani dalle nostre famiglie, ed è la famiglia allargata degli amici. C'è questo aspetto che è una novità. Per esempio, mi ricordo che nella prima puntata Rachel ha abbandonato l'altare, Ross si è lasciato con la moglie, Monica si sta lasciando col suo attuale fidanzato. Insomma, se prima erano Happy Days, dove tutti si sposavano e vivevano felici e contenti, come nell'ultima puntata di Happy Days, dove c'è il matrimonio di Chucky, invece Friends inizia che è tutto un macello, sono giorni non felici, sono giorni complicati, nevrotici, e da qui si possono inserire nella serie tutta una serie di novità, per esempio anche una consapevolezza maggiore dello spettatore. Friends tratta lo spettatore come un amico. Per esempio, nei titoli originali, quando noi con gli amici ricordiamo un episodio, diciamo quello appunto della medusa, quello dove fanno pipì sulla gamba perché Monica si era urticata con una medusa. Ecco, i titoli originali di Friends sono così: quello in cui Ross e Rachel si prendono una pausa, quello con la lista di Rachel, eccetera. Cioè, come li ricorderesti a un amico? E quindi questa consapevolezza in più ha portato poi tanti semi, e oggi ci sono i frutti di questa serie, tant'è vero che ne parliamo a distanza di anni. Grazie a Matteo Marino, critico cinematografico ed esperto di serie TV. Passiamo a un altro ospite che di telefilm se ne intende, anche lui, Leo Damerini, autore del Dizionario dei Telefilm e La vita è un telefilm, tra l'altro direttore del Telefilm Festival. Allora Leo, qual è la chiave del successo di Friends e della sua longevità? In realtà Friends non è una semplice sitcom scacciapensieri, come si potrebbe pensare, ma è un ritratto, secondo me, generazionale, 30-something, cioè più o meno dei trentenni degli anni 90. Consideriamo che la serie è partita nel 94, quindi siamo esattamente nel pieno centro degli anni 90, ma come ha scritto, credo egregiamente, Aldo Grasso, è una serie sulla noia, nel senso che in realtà la summa o il concetto che emerge da questa sitcom, nonostante abbia fatto ridere per anni e anni, in realtà è la noia che pervade il Central Perk o comunque il salotto della casa dove avvengono le vicende. Quindi in realtà è tutto uno sfuggire a quello che latente, molto sottotraccia naturalmente, la sitcom in qualche modo mette in scena, cioè il fatto di cercare di in qualche modo sconfiggere la noia o le difficoltà quotidiane rispetto a una generazione che in qualche modo è stata una generazione molto di passaggio, e quindi anche il telespettatore di quell'età, più o meno di quell'età, riusciva anche a in qualche modo a interfacciare e capire. Siamo con Leo Damerini, autore del Dizionario dei Telefilm e della Vita è un telefilm, con il quale stiamo approfondendo le ragioni del successo di Friends. Leo, perché secondo te gli attori non hanno mai ceduto alla tentazione della famosa reunion, nonostante la pressione dei fan magari di un film per il cinema? Ma io credo che sì, uno sicuramente dei motivi probabilmente sarà anche la questione dei contratti, tant'è che vanta Friends uno dei cachet più alti della storia dal punto di vista anche dal punto di vista proprio del cast, no? Di quello che avevano raggiunto all'epoca, che era stato un record assoluto per quello che riguarda la TV americana. Poi credo che almeno due o tre di loro non vogliano più ritornare sul set, per una questione forse anche di un passo indietro rispetto a quello che hanno fatto. È chiaro che poi, se guardiamo la filmografia di Jennifer Aniston e via a scalare, in realtà non è una filmografia eccellente o che possa dire che dopo il successo mondiale di Friends potesse andare anche in altre direzioni anche più alte. Lo stato dei fatti è comunque che al momento non ci siano degli sbocchi o delle possibilità per rivederli insieme. Grazie a Leo Damerini, è il momento di fare un salto per misurare la popolarità ad oggi dei nostri sei amici, un salto che facciamo come di consueto nel web. Per uno show nato quando internet era ancora abbastanza lontano dalle case di tutti, Friends vanta comunque un'ottima presenza su rete e social. Il sito che si definisce ufficiale è friends-tv.org e c'è una sezione wikia dedicata con pagine per i personaggi, gli episodi, gli interpreti, oltre a una parte di quiz per provare la propria preparazione. Da non sottovalutare la pagina di Wikiquote, con le citazioni episodio per episodio. Si trovano curiosità anche su Internet Movie Database e moviemistakes.com. Friends.tv su Facebook ha quasi 20 milioni di mi piace e c'è anche il profilo Le migliori frasi di Friends. Su Twitter c'è Friends TV Show con 140.000 follower. L'hashtag è #Friends. Friends è presente anche su Pinterest e Tumblr. Quello di Friends è il quarto finale più visto di sempre nella storia della TV americana. Ve lo racconta tvseriefinale.com. BuddyTV.com propone invece il quiz sulla personalità che ci rappresenta in Friends. La Friends mania, nonostante siano passati 10 anni dal termine della serie, non è finita. L'NBC Universal Store propone ancora i gadget della serie e su Amazon si può comprare il calendario 2014 di Friends. Lasciamo il virtuale e torniamo invece al reale, alla gente in carne ed ossa. Ci immergiamo in una piazza italiana per chiedere a qualche persona un ricordo di Friends. Personaggio preferito di Friends? Chandler. Perché? Perché è il più simpatico. Ti identificavi in lui o in qualcun altro? Ma non mi identificavo tanto, però tra tutti era quello in cui mi identificavo di più. Hai visto tutta la serie? C'è qualcosa che ti è piaciuto di più, qualcosa che ti è piaciuto di meno? Qual è il tuo momento preferito? Il mio momento preferito è quando Chandler e Joey comprano le poltrone e stanno 3 giorni, 4 giorni in casa, non si alzano neanche per andare in bagno. Il momento più brutto è quando Chandler si è fidanzato con Monica, perché secondo me lì è finita la serie. Qual è il segreto del successo di Friends secondo te? Beh, perché secondo me aveva delle dinamiche in cui qualcuno ci si poteva riconoscere, e poi aveva un fattore comico molto alto. Personaggio preferito di Friends? Oddio, è difficile. Monica. Perché Monica? Perché è pazza, ma fino a un certo punto, diciamo che forse fra tutti alla fine quella che è quel pazzo che rientra nei limiti. E c'è uno dei sei che ti piace di meno degli altri? Joey, perché è veramente troppo stupido. Personaggio preferito di Friends? Allora, Monica, se ne posso dire un altro, anche Chandler, che era molto molto simpatico. Perché due? Chandler è, diciamo, quello che mi piace di più dal punto di vista umoristico. Monica, perché mi identifico, maniaca del controllo, un po' schizofrenica, e poi alla fine si sposava con Chandler, che era l'altro mio preferito, e quindi evidentemente erano i miei preferiti entrambi. La serie ti piaceva, non ti piaceva? Te ne è piaciuta di più una parte, più un'altra? Allora, diciamo che il mio momento clou è stato il matrimonio di Chandler e Monica, appunto, perché mi piaceva come stavano insieme. Ti ricordi qualche battuta? Beh, mi ricordo Chandler Bong. Che personaggio di Friends sei tu? Ross. Perché? Perché è ingenuo ma fa ridere. E Ross è il tuo preferito o c'è un altro che è il tuo preferito? Il mio preferito forse è Chandler. Che forse sono un po' più Chandler, però vabbè. Però alla fine Ross vince. E quello che ti piace di meno? Di Friends è difficile uno che mi piace meno, sinceramente. Forse nelle prime serie Rachel. Perché ha avuto successo Friends, secondo te? Che cosa aveva di speciale? Perché siamo noi. Ti ricordi una battuta di Friends? No, mi ricordo, in questo momento mi viene in mente solo Phoebe quando correva agitando le braccia. Mi viene in mente quella, che non è una battuta, però mi viene in mente quella scena lì. L'incontro con questi nostri sei amici immaginari sta per concludersi, ma prima vogliamo scoprire insieme a Chiara Pizzimenti che fine hanno fatto, dalla conclusione della serie ad oggi, gli attori che li hanno interpretati. Jennifer Aniston è quella che ha sfondato nel cinema raccogliendo l'eredità di Meg Ryan come protagonista di commedie romantiche. Courteney Cox, Monica, è rimasta in TV nei panni di una appetibile quarantenne appena divorziata in Cougar Town, in onda dal 2009. Molti dei suoi colleghi hanno fatto capolino come ospiti, la Aniston, Lisa Kudrow e Matthew Perry. Proprio Chandler è quello che sembra aver avuto più progetti che veri successi, una sola stagione per le serie Studio 60 e Go On. Va meglio con le apparizioni come guest star in The Good Wife. Lisa Kudrow si è data a internet come protagonista di Web Therapy, serie web in cui interpreta una dottoressa che risolve online i più vari problemi altrui. Il meno visibile è David Schwimmer. Oltre alla voce della giraffa Melman in Madagascar e qualche comparsata, pare essersi dedicato più alla regia teatrale. Matt LeBlanc, infine, è l'unico ad aver avuto uno spin-off, Joy, andato in onda senza molto successo. Raccontava della vita di attore a Los Angeles del personaggio di Friends. Più di recente ha invece ottenuto anche un Golden Globe per la sua interpretazione di se stesso in Episodes, serie che racconta della sua ricerca di un lavoro in una serie TV. L'amico immaginario per oggi è finito. Vi lasciamo con un'altra conclusione, le ultime battute di Friends alla fine della decima stagione. Il nostro saluto a Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joy e Phoebe. Guardatevi intorno, ragazzi. Questa è stata la vostra prima casa. Una casa felice, piena di amore e di risate. Ma ancora più importante di questo è stata una casa ad affitto bloccato. Ehi, vi rendete conto che per un motivo o per l'altro abbiamo vissuto tutti in questo appartamento? Sì, è vero, sì. Hai ragione. Beh, io no. Ti sei dimenticato di quando sei venuto a stare dalla nonna perché volevi darti alla danza? Ti rendi conto che ormai erano quasi 10 anni che non se ne parlava? Oh, ancora una cosa. Dobbiamo lasciare qui le nostre chiavi. Oh, certo. Allora finisce qui. Sì, è vero. È più difficile di quanto credessi. Dai, non fare così. Coraggio. Andate subito a casa nuova o avete ancora un po' di tempo per noi? Sì, abbiamo tempo. Vi va una tazza di caffè? Certo. Andiamo. Dove?